vero che Mario Balotelli a gennaio arriva alla Juve? Perché sinceramente a me da juventino, anche se me lo regalavano, non me lo prendevo. Da questo momento, lo dico quasi quasi credendoci, il Palermo vincerà lo scudetto. Volevo sollevare un attimo il livello del colloquio dopo aver sentito Cassano, perché veramente non si può sentire. Tutti convocati. Adesso io ho cominciato, devo recuperare tutto quello che ho perso in questi anni. Ma c'è la possibilità di fare bene finalmente quest'anno? Io penso che c'è la possibilità di fare molto meglio di quanto non abbiamo fatto. E adesso partiremo da alcuni punti elementari e lavoreremo. Ce ne dice qualcuno, visto che lei... No, è l'allenatore che deve fare. Se no dite che io faccio, prendo il posto dell'allenatore. Si ricomincia da lei? Sì, sì, si ricomincia. Cosa ha detto da lei? Niente, ha ascoltato. A gennaio si farà qualcosa sul mercato? Siamo qui per quello, adesso vedremo, lasciatemi prendere in mano la situazione. È la giornata del Gepensi Mi, buon pomeriggio, 800 24 00 24 per dirci in diretta, siete tutti convocati, cosa ne pensate del Silvio Berlusconi di pochi minuti fa che avete appena ascoltato, Berlusconi che è ancora milanello. Però potete parlare di quello che volete, anche di Cassano e Conte. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Un saluto a Franco Piantanide in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Un saluto da Giovanni Capuano e un saluto anche ad Alessandro Bonanda Sky. Alessandro, buon pomeriggio. Ciao, ciao, come state? Bene, è la giornata del Gepensi Mi? Sì, è la giornata del Gepensi Mi, è la giornata del presidente che fa quel che deve fare, insomma... Sta vicino alla squadra, difende l'allenatore e rilancia sul piano dell'ottimismo, che è una cosa che poi a Berlusconi riesce molto bene. Sì, ci aspettavamo tutti che andasse lì per spronare, lui ha detto ma che spronare, qui c'è molto lavoro da fare. No, ma infatti è giusto, però la cosa importante è che Berlusconi abbia risposto si riparte da Allegri, qualora si fosse mai rimasti fermi a lui, ecco, quindi... credo che sia la cosa più giusta, perché Allegri non ha responsabilità, o meglio, insomma, sicuramente le ha, ma le ha minime rispetto ad un Milan che ha cambiato decisamente faccia rispetto allo scorso anno. Sì, c'è poi da verificare quanto questa fiducia incondizionata in Allegri sia una fiducia capace di resistere anche alla prossima settimana, che è una settimana terribile per il Milan, perché c'è la trasferta a Napoli, c'è quella a Bruxelles, poi arriva la Juventus a San Siro e fra 7 giorni potremmo essere qui a raccontare di una stagione, se possibile, ancora in toni più cupi di quelli che già adesso sono cupi. Però noi dobbiamo registrare che oggi Berlusconi ci ha messo la faccia, non capitava da mesi, perché fin qui aveva parlato soltanto a fine luglio ai microfoni di Milan Channel, ci ha messo la faccia, ha confermato la fiducia in Allegri, ha detto anche qualcos'altro, io ho provato a sintetizzarlo, se Allegri è qui è perché ha la mia fiducia e poi noi in 26 anni ne abbiamo mandati via soltanto 2 di allenatori, poi ha detto anche gli acquisti dell'ultima estate non sono stati ideali e i rinforzi a gennaio li faremo, e poi ha fatto... come tradizione del resto la formazione ad Allegri, o siamo cattivi, ha detto vorrei Bojan dietro il Sharawi e Pato, Montolivo mi ricorda Pirlo, è un regista, ne parlerò con l'allenatore. Sì, vabbè, questi sono dettagli tecnici a cui non riesce a rinunciare Berlusconi, ma insomma è normale che lui dica anche la sua, e tra l'altro insomma non mi sembra che abbia sproloquiato da questo punto di vista, perché tecnicamente i discorsi che ha fatto ci possono anche stare. A me sembra che anche Allegri ormai abbia capito che Bojan debba stare dietro 2 attaccanti, che quindi debba giocare titolare, e il problema del Milan quest'anno è ritrovarsi in squadra un giocatore completamente diverso rispetto a quello dello scorso anno, che è stato Boateng, quindi l'unica soluzione per sopperire e surrogare Boateng è proprio Bojan, e quindi questa è la prima cosa. Su Montolivo secondo me grava ancora un grande punto interrogativo, perché non si capisce bene quale sia il ruolo ideale di Montolivo. Io credo che sia soprattutto un centrocampista moderno e che quindi proprio per questo sfugge all'etichetta. Non mi pare che abbia proprio i crismi del regista classico, ecco, e quindi da questo punto di vista sicuramente lo potrebbe fare, ma bisogna farci un lavorino sopra e non so se adesso c'è il tempo. Ma tu ti aspetti che Allegri abbia diligentemente preso appunti? In passato non lo ha fatto, però è anche vero che in passato era difeso dai risultati che oggi vengono a mancare. Può essere più difficile anche per lui non ascoltare questi input presidenziali? No, ma secondo me li ascolterà, ma il Milan, il fatto è che per esempio il Milan contro la Fiorentina è stata più debole della sua avversaria, e questo è il problema. Il problema è che il Milan oggi è una squadra con delle mancanze, delle deficienze, e quindi deve forse magari trovare un pizzico di energia in più dal punto di vista anche emotivo, ecco, perché forse questo ambiente abituato sempre al successo, alla vittoria, e trovarsi così una squadra dimessa, questo potrebbe far pensare ad un qualcosa da affrontare non con la giusta, con la giusta mentalità. Forse un minimo di mentalità un po' più provinciale farebbe bene al Milan. Ma detto questo, insomma, puoi trovare tutte le soluzioni che vuoi, puoi giocare con citando i numeri che a me non piacciono, 4-2-3-1, 4-3-3, quello che ti pare. Resta il fatto che, per esempio, contro la Fiorentina il Milan è stata inferiore ad una squadra che adesso la sopravanza in classifica. Sì, qualcuno da casa perfidamente 349-238-6666 ci scrive: vi ricordo che Berlusconi aveva anche promesso di non vendere né Kakà né Ibrahimovic e poi l'ha fatto, e la domanda che volevo farti è proprio questa: se questa visita a Milanello di Berlusconi avrà poi questo potere taumaturgico che in tanti gli hanno assegnato. Basta scorrere oggi i giornali che presentavano questa giornata, che forse in passato ha avuto, ma che non so se in questo momento può avere, anche per il legame che c'è tra Berlusconi e l'ambiente Milan, che evidentemente, e per ambiente intendo i tifosi, evidentemente è un po' sfilacciato dopo le ultime esperienze. Ma non so se avrà un potere taumaturgico, però come dicevo prima, Berlusconi ha fatto bene il suo mestiere di presidente, che è quello di star vicino ad una squadra, quindi oggi si è presentato, ha cercato di generare un minimo di entusiasmo in più in un ambiente piuttosto depresso, perché l'entusiasmo può tanto, la testa può tanto, quindi lui lo sa, in una squadra che non è la squadra degli altri anni, forse l'entusiasmo può far conquistare qualche punto. Detto questo, il Milan quest'anno deve tenere duro, far passare questo anno senza troppi danni e poi riorganizzarsi forte anche di casse un po' più ricche e di una politica degli stipendi che è cambiata, organizzarsi per la prossima stagione più che altro lavorando sulle idee, sui giovani, cercando di arrivare un po' prima sui giovani importanti. Sì, cambiando comunque molto prospettiva rispetto agli ultimi 25 anni. Alessandro, ti chiedo un minuto di pazienza, ci sono le notizie sul traffico, poi chiudiamo parlando anche di El Shaarawy, perché oggi Berlusconi l'ha in un certo senso investito della candidatura quasi a leader dello spogliatoio del Milan. Sentiamo Berlusconi, traffico e poi chiudiamo. È una bella... Non dico sorpresa, perché l'avevamo visto bene e l'ho voluto però sorprendere io, ma è un ragazzo solido con i piedi per terra, che già si è dichiarato per quello che ha come valore, e penso che farà benissimo. Adesso magari se cambiasse anche la pettinatura, però così è molto riconoscibile, soprattutto per i vecchietti come me che ci vedono poco, mica vero? Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24, per dirci in diretta cosa ne pensate. I tifosi del Milan la stanno prendendo anche con filosofia. Scrive Marco su Twitter: per la panchina spunta il nome dell'ex tecnico dell'Edil Nord e l'arrivo in elicottero fa molto anni 80. Alessandro Bonan, per chiudere, oggi c'è stata l'investitura di El Shaarawy, è stato il primo ammesso al saluto di Berlusconi quando il presidente è arrivato al campo di allenamento a Milanello. Le parole le abbiamo sentite prima della pausa per il traffico. C'è l'impressione che da oggi in poi il Milan investirà molto, non soltanto dal punto di vista tecnico, su questo ragazzo che in fondo ha 19 anni. Sì, ecco, questa è la classica operazione che il Milan deve cercare di ripetere in futuro. È arrivato prima su un ragazzo importante che ha non soltanto delle qualità tecniche notevoli, ma anche delle qualità morali, che fanno di lui un calciatore completo, un calciatore da Milan. Se ci fate caso, Shaarawy non dice mai una parola fuori posto, è sempre molto misurato. Posso azzardare un paragone, Alessandro? Sì. Sentire e vedere il Shaarawy in queste settimane a me ricorda molto l'impatto del primo Del Piero sulla Juventus, quando anche a sentirlo ti accorgevi che comunque c'era sotto qualcosa di diverso rispetto al solito ragazzino pieno di talento, anche fortissimo, anche destinato a una grande carriera, ma che magari soffre in maniera anche fisiologica di tremori, di timidezze. A me il Shaarawy da questo punto di vista ricorda molto Del Piero. Sì, è un paragone super azzeccato, perché effettivamente è così. Tra l'altro ha, proprio in comune con Del Piero, anche un senso del gioco molto asciutto. Cioè, il Shaarawy difficilmente fa una cosa giusto per il gusto dello spettacolo, ma gioca in maniera spettacolare finalizzando le sue giocate al risultato. E questo lo fanno soltanto i grandi campioni, i grandi calciatori. Lui, se ci fate caso, fa tutte cose molto importanti senza indugiare troppo su se stesso e sul numero. È un giocatore esclusivo in questo senso. Sì, a maggior ragione da oggi è l'uomo copertina dal Milan. Poi ti saluto, ti appassiona la guerra del qua qua qua fra Conte e Cassano? Per niente. Eppure oggi si parla quasi solo di quello, un po' in tutta Italia, nei bar e non solo. No, ma infatti è un discorso da bar, ed è giusto che nei bar lo si affronti. Per quanto mi riguarda è un argomento veramente privo di totale interesse. Non pensi che Moratti e Allegri potrebbero provare a chiedere a due loro dipendenti, in fondo, Moratti e Agnelli, scusa, potrebbero provare a chiedere a due loro dipendenti, in fondo, perché questo sono Conte e Cassano, di soprassedere? Potrebbero, effettivamente potrebbero. Non so, bisogna capire se sotto certe schermaglie, diciamo, non divertano anche loro. Può essere che, insomma, alla base ci sia anche questo, che ogni tanto, insomma, anche ad Agnelli e Moratti piaccia stare al bar. Anche se magari si telefonano, fanno una vigilia di Juventus-Inter invitandosi allo stadio reciprocamente, comunque una partita che viene vissuta fondamentalmente bene, visto quali erano i precedenti, poi però si scivola su queste cose. No, lì mi erano piaciuti molto, devo dire la verità, ma insomma in questo caso io penso che prima o poi, insomma, la voce dalle due parti si leverà. Come opportuno che sia, per il momento, se questa piccola polemica serve a far sorridere qualcuno, a far discutere qualcuno al bar, va bene, ok, non c'è problema, insomma ci sono cose più gravi di questo. Grazie ad Alessandro Bonan. Ciao ragazzi, ciao. Grazie Alessandro. Ci sono Francesco da Bologna e Salvatore dalla provincia di Foggia. Cominciamo con Francesco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Prego. No, ecco, volevo parlare un attimino velocemente del presidente Berlusconi. Siamo qui. Mi auguro che sia vero e sono anche convinto che riprenda in mano il Milan a livello amministrativo e di mercato, perché ne abbiamo veramente bisogno. E da ignorante di calcio a da sportivo quale sono, io se fossi nel presidente Berlusconi chiaramente ripartirei da El Shaarawy, curandolo soprattutto e tenendolo al di fuori di polemiche e altre cose, perché ha del talento al di sopra di ogni sospetto. L'età è molto giovane, quindi va curato va salvaguardato, e da lui ripartire con dei ragazzi giovani, che nel Milan lì ci sono, Acerbi, De Siglio, e andandone a pescare qualcun altro e fare veramente una squadra come quando il presidente Berlusconi aveva preso in mano il Milan, vecchia maniera. Sì, Francesco, io sottoscrivo tutto, però con due premesse che sono fondamentali. La prima è che bisogna spiegare alla gente che si può anche non vincere subito, e anzi si può anche dover investire qualche anno prima di tornare ai vertici. La seconda è che il primo Berlusconi non ha fatto una squadra di ragazzi e di giovani, ma è un presidente che è entrato e con la forza dei suoi soldi, delle sue idee, ha cambiato il mondo del calcio italiano, anche e soprattutto a partire dal mercato, e questa è una cosa che in questo momento Berlusconi non si può permettere, prima di tutto per questioni economiche. Salvatore dalla provincia di Foggia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao. Salve, senta, io anch'io volevo intervenire riguardo a Berlusconi. Innanzitutto, secondo me, non è vero che non se lo può permettere, perché se volesse... io poi condivido con quello che ha detto solo l'appoggio del Sharawi, sulla quale io sono rimasto veramente colpito da questo giocatore, però su tutto il resto, il fatto che prima dica ci penso io, no, fatemi riprendere in mano il Milan, e poi apra a nuovi investimenti esteri, che ormai abbiamo capito che non ce ne sono. Sì, lui in realtà ha detto che in questo momento non esiste nulla, ma se qualcuno voglia, ogni proposta verrà ascoltata. Questo è un discorso che Berlusconi oramai fa da qualche mese, non è una novità di oggi, sì, Salvatore. Sì, però prima cioè oggi ha dichiarato che farà lui capo della società, di nuovo capo della società, e poi riapre a questi fantomatici investitori che ormai non ci sono. Per quanto riguarda la situazione attuale del Milan, io penso che sia una squadra costruita male, e su questo qualcuno se ne debba assumere la responsabilità. Finora, da tifoso deluso, questo non vedo, qualcuno che si assuma la responsabilità di una squadra costruita male, con un intento che non è neanche tanto trasparente come quello di mettere dei nuovi giovani in campo. Però se si vuole fare una squadra di nuovi giovani, anche lì bisogna investire, vedasi la Roma, pur non avendo risultati subito. Sì, ma vedasi, Salvatore, vedasi anche il Sharawi, che non è costato due noccioline, però è un investimento fatto bene, ed è un investimento che da quel punto di vista, almeno in questo momento, permette al Milan di avere già una delle caselle per il futuro occupate. Grazie Salvatore. Mario da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. Volevo un vostro parere. Io sono un tifoso interista. Dica. Cassano lo conosciamo tutti, in tutte le squadre che ha girato, è il personaggio che è. Ma Conte, che si ritiene così una persona, sempre queste risposte pelose, sempre questo astio, lo si vede, no, dalle risposte, tra l'altro su un sito ufficiale della squadra. Io dico, ma secondo voi, lui che dice di avere più testa dell'altro, ma non la può smettere. Ma io posso dire che dovrebbero smetterla tutti e due. Io anzi voglio lanciare un appello, siccome è difficile che Conte, Cassano e magari domani sarà il turno di qualcun altro a fare polemica, possano smetterla. Che ci pensi chi paga queste persone, questi allenatori e questi giocatori, li paga anche profondamente, perché secondo me il danno, ad esempio, di questa polemica da osteria, l'ultima, qualcuno dice di essersela persa, poi vi faremo sentire un estratto di che cosa siano detti Conte e Cassano, beh, il vero danno lo stanno facendo a Inter e Juventus, che tra l'altro nelle ultime settimane, con grande maturità di Moratti e Agnelli, stavano cercando di ricostruire un rapporto dopo un periodo difficilissimo. E allora noi lanciamo l'appello che siano loro ad intervenire per far tacere Conte e Cassano, e chi come Conte e Cassano in questo momento rischia soltanto di mettere in cattiva luce Inter e Juventus. Francesco dalla provincia di Napoli, buon pomeriggio. Buonasera, senta. Prego. Io volevo chiederle, se possibile, un suo parere riguardo alla questione dell'acquisto della Juventus del terreno dal Comune di Torino. Sì, l'area della Cantinas, della Continassa. Lei sa che l'ha pagata 58 centesimi. Sì, ne abbiamo parlato ieri con Marco Belinazzo del Sole 24 Ore. Lei sa che Giannino ne sta facendo una battaglia. Vi abbiamo annunciato che verrà l'amministratore delegato della Juventus a parlarne con Giannino. Quindi è una vicenda che certamente Radio 24 seguirà. Che cosa ne penso? Noi lo abbiamo detto ieri con Marco Belinazzo. Serve la legge anche per mettere chiarezza ed evitare che si facciano figli e figliastri. Dopodiché è tutto da dimostrare che per il Comune di Torino non sia comunque un affare riuscire a monetizzare un'area che altrimenti sarebbe più o meno dismessa. Però è evidente che il sospetto di un favore alla Juventus, alla Fiat, a tutto quello che rappresenta per il mondo di Torino può venire. Però Francesco, mi creda, su Radio 24 la risposta a questa domanda lei la troverà. Ci fermiamo, ci sono le notizie di borsa. Poi torniamo, parleremo anche di pallacanestro e di rugby, perché domani c'è Italia-Nuova Zelanda. Tutti convocati. Tutti convocati. Ho rifiutato tre volte la Juve. Per varie situazioni non sono mai andata alla Juve, perché ho un'idea che lì vogliono solo i soldatini. quando si parla di soldatini poi si parla di professionisti. Quando dietro l'uomo invece c'è un qua, un uomo di poca cosa, e allora sono i primi che ti fanno affondare, e quindi preferiamo lasciare questi giocatori agli altri. Qua fra me e lui non sono sicuramente io, al massimo sarà lui. Se uno che è squalificato per omessa denuncia viene a parlare di moralità a me, significa che è finito il mondo. Insomma, se ve la l'avate persa, eccola qui in 40 secondi la polemica tra Conte e Cassano, tra uomini, ominicchi, qua. Leonardo da Bari, buon pomeriggio. Sì, ciao. Prego. Ciao, complimenti. Grazie. Ascolta, per la polemica Conte e Cassano, basta ricordare, così polemiche non ne fanno più, che Conte è leccese e Cassano è barese. Praticamente l'odio-amore che c'è sempre tra queste due città nell'ambito sportivo è a tutti i livelli. Mi sono spiegato? Quindi c'è qualcosa che viene dalle loro origini dietro, sì, questa antipatia? Sì, anche se Conte ci ha fatto divertire a Bari con la promozione e cose. Ma non è stato mai, c'è stato sempre quello spigolo di leccesità che purtroppo nello sport qua lo viviamo profondamente. Lo stesso Cassano non fa niente lui per limitare, per confermare che io sono un campione, non un campione che può fare ciò che vuole o dire ciò che vuole e pensa. Praticamente la rivalità è solo questa. Grazie Leonardo. Il leccese sta comandando il campionato italiano e il barese non arriva sempre all'input delle sue capacità. Grazie Leonardo. Gigi da Bergamo. Sì, buongiorno. Prego. Niente, volevo solamente ribadire a quel tifoso interista che diceva che c'era l'astio sull'Inter. Forse non si ricorda bene che quando c'era Mourinho l'Inter faceva molto, ma molto peggio di Conte. Ah, beh, di sicuro da questo punto di vista Conte assomiglia molto a Mourinho nella capacità di buttarsi con i piedi e con le mani dentro le polemiche, anche quelle più scomode, Gigi. Sì, però dico che anche l'altro dato episodio di quando Pepe ha fermato il famoso guardialine, non si ricorda che Mourinho e la panchina addirittura andava in campo direttamente quasi dall'arbitro a fischiare. Cioè, bisogna essere obiettivi nelle cose, capito? Dopo queste qua sono polemiche da bar, lasciamo che si sbrigano tra di loro con due lì e basta. Grazie Gigi, saluto Flavio Tranquillo, buon pomeriggio Flavio. Buon pomeriggio. Perché parliamo anche di pallacanestro, giusto? Non soltanto di Conte, Cassano e del che pensi mi di Berlusconi. Come stiamo andando? Ho letto oggi Cantù quasi fuori dall'Eurolega, Siena che ha vinto ed è una vittoria che potrebbe essere chiave nel cammino verso la top 16, tutto aspettando quello che farà questa sera Milano. Mi pare la fotografia di una stagione del basket italiano che è destinata abbastanza a stare sulle montagne russe. Sì, sicuramente sta sulle montagne russe, direi altrettanto sicuramente non dipende dal fatto che passino 3 squadre alla top 16 o 0 squadre alla top 16, che sono due evenienze al momento ancora possibili ambedue. Il problema mi sembra un problema di prospettiva, la prospettiva non può essere quella di cosa hai fatto nell'ultima partita, è quella che manca al basket italiano, la prospettiva, e quindi non possiamo attenderci la risoluzione da un risultato o da una partita, posto che Cantù e Siena comunque mi sembrano squadre che in Eurolega possono fare un'ottima figura, ma non di più, mentre Milano era stata costruita per fare qualcosa di più. I discorsi non sono legati a un unico risultato, ma questo vale anche per Scariolo e il suo futuro? Beh, questo bisognerebbe chiederlo naturalmente a chi decide. Anche qui, se il destino di un allenatore è legato a un singolo risultato, c'è qualcosa che non funziona, però poi sappiamo benissimo che in generale i singoli risultati tendono a fare la storia degli allenatori. Se sia questo il singolo risultato, onestamente non ne ho la più pallida idea. Tradotto, non si può dire se questa sera a Istanbul Scariolo si gioca davvero la panchina o soltanto una partita importante in Eurolega, ma senza che possano esserci ripercussioni più pesanti sulla storia recente dell'Olimpia. Io presumo che non sia, poi sai, dipende sempre moltissimo se vinci come vinci, se perdi come perdi, perché è decisamente legato anche a questo, però ripeto per l'ennesima volta, se bisogna guardare solo al risultato di una partita, allora si può anche prendere un allenatore a gettone e cambiare l'allenatore dopo ogni sconfitta o tenerlo solo se le vince tutte, di che naturalmente è limitativo. Oggi abbiamo visto Berlusconi arrivare a Milanello a dire adesso ci sono io, bisogna lavorare e confermare Allegri e dire al Milan deve cambiare tutto. Che cosa servirebbe all'Olimpia? Un intervento così, un po' più di tranquillità, la consapevolezza che per costruire un progetto bisogna anche investire qualche mese in cui può capitare di perdere? Ma l'investire qualche mese, secondo me, è stato investito, diciamo, qualche mese, perché tutto sommato questo non è un progetto che sia cominciato ieri o sia cominciato a settembre. E qualche mese in generale è stato investito. La tranquillità è sempre un ottimo elemento. Io ho paura un po' in generale, ma percepisco molto dall'esterno le cose, ma ho paura un po' in generale che l'idea sia quella della tranquillità per decreto. E la tranquillità per decreto non è quella che si sta cercando, perché la tranquillità per decreto non porta a dei buoni risultati nel medio-lungo periodo, così come ancora meno porta a dei buoni risultati licenziare l'allenatore che perde 3 partite di fila. Il problema è avere un qualcosa di solido su cui costruire, e qui secondo me non è così facile trovarlo. Intanto possiamo dire che la notte che arriva è la notte del debutto di D'Antoni? Non credo che sia la notte del debutto. Non in panchina. Non in panchina per motivi medici. Penso che il debutto in panchina sarà domenica. Ieri c'è stato il debutto in allenamento ed è quella una bella storia. Raccontiamola, dai, abbiamo un paio di minuti. È una storia che riempie d'orgoglio anche noi italiani, perché Mike D'Antoni in fondo lo consideriamo uno di noi e io credo anche ha ragione per quello che ha rappresentato per il basket italiano. Beh, direi di sì, un figlio nato a Milano, quasi 20 anni di Italia e oltre alla discendenza, beh, è una storia incredibile, come il figlio di un allenatore di high school, di liceo del West Virginia, che ha 99 anni e sta benissimo, è forse ancora il miglior allenatore che c'è in famiglia, possa diventare allenatore dei Knicks e dei Lakers dopo aver passato appunto 20 anni in Italia, dopo essere stato rifiutato dall'NBA come giocatore e rifiutato dall'NBA come allenatore al primo tentativo a Denver, beh, è veramente una storia molto molto interessante. Anche qui, se i Lakers vogliono giudicare quello che succede dalle prime 15 o 20 partite di D'Antoni, non so neanche se augurargli di vincerne 15-20, perché poi avrebbe il fiato troppo corto. Se invece riescono a creare un sistema di gioco che possa far convivere questi 4 giocatori, e beh, poi allora questi 4 giocatori sono forti forti. Quando dice di essere lì per vincere il titolo, e lo dicono anche i suoi uomini, dice la verità, è un proclama. Tu poi che lo conosci bene. Questo dovrebbe essere, se non succedono altri colpi di scena, e questo come colpo di scena non è male, l'ultimo lavoro della carriera di Mike D'Antoni. È chiaro che l'obiettivo è vincere un titolo, ed è chiaro che questa squadra è costruita per vincere un titolo. Non è costruita probabilmente in maniera perfetta, però non si può. L'NBA bisogna sempre ricordarsi che non è una situazione in cui uno prende dal mercato quello che vuole, ma ci sono dei paletti. Il livello di talento dei Lakers, se parliamo dei primi 6-7 della rotazione, non ce l'ha nessuno. Molti hanno naturalmente sistemi più oliati, più tempo passato insieme, eccetera, eccetera. Vediamo, arrivati ad aprile-maggio, quale di queste due cose conta di più. Io credo però per i Lakers sia importante competere quest'anno per il titolo, non necessariamente vincerlo a tutti i costi. Se competono, si possono dare un secondo anno di questo esperimento per provarci. Grazie a Flavio Tranquillo. Saluti. Grazie a Flavio Tranquillo, ci fermiamo un minuto per il traffico, poi ci sono Alessandro da Roma e Pasquale dalla provincia di Chieti. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Alessandro da Roma, buon pomeriggio. Salve, complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Mi senta, io vorrei, cioè sono un tifoso da Roma che sono molto arrabbiato di quello dei risultati che stanno venendo fuori, soprattutto dal derby, su De Rossi e su quant'altro. Io ho letto sui giornali sul possibile addio di Zeman e di un possibile arrivo di Allegri. A me mi sembra un po' un'assurdità, perché Allegri, essendo nel Milan, e Zeman, secondo me dovrebbero pescare un altro allenatore tipo Gigi De Cani o quant'altri. Sì, insomma, un profilo differente. Ma io, Alessandro, credo che di queste voci che si rincorrono alla fine vada colto il senso, e il senso è che la storia, la luna di miele fra Zeman e la squadra, Zeman e l'ambiente romano, è agli sgoccioli, se non addirittura finito. C'è una certa distanza, mi pare di cogliere, tra quella che oggi è la posizione della società e quelle che sono le scelte di Zeman. E la vicenda di De Rossi da questo punto di vista è abbastanza simbolica, perché De Rossi ha rinnovato il contratto quest'estate e evidentemente non era ritenuto da Zeman centrale per il suo progetto tattico. Viene da chiedersi se Zeman sia stato o no ascoltato nel momento in cui veniva scelto, se lasciar partire De Rossi o rinnovargli il contratto, rendendolo di fatto il perno del futuro della Roma. Ho l'impressione che fra i due alla fine sarà Zeman quello a doversi accomodare alla porta d'uscita. Pasquale dalla provincia di Chieti, buon pomeriggio. Pronto? Prego. Grazie, buon pomeriggio, complimenti per la trasmissione. Dica. Come al solito, perché sei bravissimo. Senti, io mi riferisco a pochi giorni fa a quello che Galliani ha detto nella riunione dopo la partita di domenica. Diceva che non era importanza cambiare l'allenatore, perché sono milanisti incazzati, in poche parole. Sì, cambiare l'allenatore avevamo capito. Non c'è bisogno. Allora, perché lui non recita il mea culpa? Perché non dice che ha fatto una squadra a questo uomo che non è degno di una squadra? Quando è andato a prendere Costanza a Genova, a quale cantina si è fermato? Io non riesco a capire. Mi deve dire quale cantina si è fermato quando è andata a prendere. Ma non sarebbe sufficiente, Pasquale, dire che forse la colpa di Galliani non è stata tanto la campagna acquisti, dove si può far bene, si può anche sbagliare, alle volte fortuna, alle volte bisogna fare una serie di errori per trovare invece qualche giocatore buono, ma forse l'errore di Galliani è stato a fine agosto dire ad Allegri che questa era una squadra che doveva lottare per lo scudetto. Io credo che l'errore che si possa imputare oggi alla società Milan e a Galliani in prima persona sia questo, più che una scelta economica che da un certo punto di vista è assolutamente comprensibile visto il momento, e che soprattutto non ha fatto soltanto il Milan con Berlusconi, ma hanno fatto e stanno facendo tanti altri in Italia e anche in giro per l'Europa. Basti vedere l'ultima campagna acquisti, povera rispetto a quelle che l'hanno preceduta, ad esempio del Real Madrid in Spagna. Giacomo Bagnasco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Abbiamo 5 minuti per disintossicarci e parlare di rugby. Oggi... No, ma diciamo che disintossicarsi non è probabilmente la parola giusta, nel senso che sempre di sport si tratta e non ci sono né santi né diavoli. Insomma. No, però c'è domani un appuntamento che dal punto di vista agonistico ha poco da dire, perché lo possiamo dire: con gli All Blacks perderemo, glielo diciamo con 24 ore di anticipo, eh? Poi registrate 14:50, magari domani verremo smentiti. Però è vero che è uno di quegli appuntamenti che ha un fascino particolare, un po' come il Gran Premio di Monte Carlo. E allora come la sta vivendo la nazionale questa vigilia? La nazionale italiana la vive in modo relativamente sereno, anche se ormai anche questo sport è uno sport molto commercializzato, e quindi ci sono stati i giocatori sia degli All Blacks sia dell'Italia, oltretutto entrambi sponsorizzati come sponsor tecnico dall'Adidas, che hanno preso parte a una serie di iniziative. Bisognerà vedere se come dicevamo domenica scorsa, la H, quella maglia nera, eccetera, alla fine si fanno sentire sugli avversari in una maniera anomala. Ecco, questo è successo in passato, lo hanno ammesso anche i giocatori di tante squadre, e quindi gli All Blacks sono un fenomeno sicuramente ultra rugbistico. Sappiamo che il loro marchio è tra i primi 5 più importanti marchi sportivi a livello mondiale, e se da un lato trovare il Real Madrid o anche i New York Yankees di baseball può non stupire, anche perché si riferiscono intanto a un territorio di base molto ampio. Pensare che da due isole con 4 milioni di abitanti agli antipodi si sia creato un fenomeno di questo tipo è una cosa sicuramente impressionante. Intanto io oggi ho letto sulla Gazzetta dello Sport Mirko Bergamasco: il miglior modo di rispondere alla H è tenere alto lo sguardo, anche se poi la verità è che bisogna pensare soprattutto a concentrarsi. Io credo che poi domani i tanti che in televisione, non solo allo Stadio Olimpico, seguiranno Italia-Nuova Zelanda saranno lì soprattutto per quei 30 secondi, per quel minutino della H. Sì, può essere, indubbiamente è così ed è un momento di grande suggestione. La migliore Italia di sempre contro gli All Blacks, che perse di 10 punti uscendo tra gli applausi e facendo commentare a un ex capitano neozelandese, è stata una vittoria degli All Blacks e un trionfo dell'Italia. Aveva come capitano Giancarlo Pivetta, che proprio questo raccomandò ai suoi giocatori. Si giocava a Leicester, il secondo mondiale della storia, disse: noi quando loro fanno la H ci piazziamo lì davanti, li guardiamo in faccia, nessun timore, addirittura piccole soddisfazioni, piccole ma significative. Un amico inglese a fine partita mi disse: sai che gli inglesi si guardavano la punta delle scarpe durante la H, guarda gli italiani che bella figura hanno fatto. Quindi noi comunque da lì in poi per tutto il pomeriggio speriamo di fare bella figura. Poi certo, vedendo nonostante alcune assenze di peso per giocatori che vengono risparmiati come Carter, McCaw, Begg, ma vedendo i nomi degli All Blacks francamente si ha l'impressione di avere dal punto di vista tecnico e tattico c'è poco da dire. Quel poco, ed è un minutino, lo spendiamo per capire le scelte di Brunel. Mi pare di capire che tornino tra i titolari i pezzi grossi: Castrogiovanni, Mirko Bergamasco, c'è un debuttante, ci sono molti cambi rispetto alla partita con Tonga, perché questa sarà soprattutto una battaglia fisica. Sì, quello sì, sicuramente Castrogiovanni è l'uomo da mettere, sicuramente la mischia è il reparto che, pur essendo a sua volta inferiore rispetto alla mischia neozelandese, è il reparto che potrebbe soffrire di meno. A livello di mediana, a livello di giocatori veloci, le differenze si allargano parecchio. L'esordiente è Francesco Minto e insomma esordire contro gli All Blacks è tutto dire, però forse è un bene, si parte così, si impara a nuotare anche quando ti buttano da una barca in mare e te la devi cavare. Vediamo che cosa succede domani. Sicuramente l'Italia deve cercare di essere più concentrata rispetto alla partita che ha giocato sabato scorso a Brescia contro Tonga. E che l'abbiamo detto, non è stata una gran partita, al di là che è arrivata la terza vittoria consecutiva. Grazie a Giacomo Bagnasco. Grazie a voi, ci sentiamo domani e ricordate che sul sito del Sole 24 Ore ci sarà anche la diretta testuale dell'incontro. Fatto, dunque la diretta a partire dalle ore 15 per Italia-Nuova Zelanda. L'appuntamento invece con lo sport di Radio 24 è per le 17 di domani a Tempo di Sport, sempre con il sottoscritto, un'ora per raccontare anche questa partita insieme alla vigilia di Juventus-Lazio e di Napoli-Milan. Io ringrazio Franco Piantanide in regia, in redazione Roberto Scaltritti in regia. Un saluto da Giovanni Capuano, ci sentiamo domani alle 17.